sostanza che non dà materie, poi la vedo per quanta io ne prenda, tossisco e poi mi piego sul corpo del ricordo, colpito dalle spade che lasciano rumore.